24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qua, cari ascoltatori, con 24 mattino. Il sondaggio di oggi, anche noi parliamo del crocifisso, la decisione della Corte Europea di toglierlo dalle scuole, o meglio, bisognerebbe toglierlo dalle scuole perché viola la libertà. Di tutti, che ne pensate? Votate su radio24.it, siete già in tantissimi a farlo, il 54% di voi per ora dice no a questa decisione, ne parleremo alle 8.30, i giornali. In primo piano. Ed è proprio questo il tema di apertura di molti, la Corte Europea via i crocifissi, il Corriere della Sera, la Repubblica via i crocifissi dalle scuole, via il crocifisso dalle scuole, anche la Stampa, dunque uguale. Messi in croce, questo è il titolo del quotidiano nazionale, e poi altre aperture che vedremo, cito solo il Sole 24 Ore, l'apertura del tema economico del giorno, ripresa con rischio debito, incentivi alle agenzie che ricollocano il personale in esubero, ci sono state le previsioni dell'Unione Europea che vedremo interessanti. Ovviamente trovate interviste, commenti declinati in tutti i modi possibili sulla sentenza della Corte Europea, che non c'entra nulla con l'Unione Europea, dobbiamo anche precisarlo, non è un organismo dell'Unione Europea. Parto dal Corriere della Sera. Adesso temo i talebani cattolici. Parla chi? L'uomo che con la moglie di origine finlandese ma italiana ha iniziato tutta questa causa. Il dottor Albertin, medico dell'ospedale di Abano Terme, una famiglia bella e unita, scrive Marco Imarisio. Ora si becca tutti gli insulti, compresi quelli alla moglie di origine finlandese. Torna tra le renne e poi evito il resto. Dice: non fotografatemi, temo i talebani cattolici, i miei figli sono stati picchiati in classe dopo la prima sentenza del 2002, ma è una battaglia di civiltà che abbiamo portato avanti. Le interviste. Parla il cardinal Casper, sempre sul Corriere della Sera. Cosa penso, tutto sommato? Che noi cristiani stiamo dormendo. Questa manifestazione di secolarismo aggressivo dovrebbe dare un segnale per svegliarci e alzare un po' la voce. E ancora, come, dice a Gian Guido Vecchi, mostriamo la nostra presenza. La tolleranza verso gli altri è doverosa, ma ci siamo anche noi. Abbiamo i nostri diritti, siamo in democrazia, no? Abbiamo le elezioni. Dunque il cardinal Casper che dice sostanzialmente: cari cattolici, fatevi sentire quando si vota. Si distrugge tutto in nome della laicità. È un'intervista a Maria Stella Gelmini, ministro dell'istruzione, parla alla Stampa, Flavia Amabile. La Corte Europea sbaglia, dice, un simbolo della nostra tradizione, nessuno vuole imporre nulla, si è liberi di non frequentare l'ora di religione. La Gelmini poi conferma, insomma, che il governo farà ricorso contro questa decisione della Corte Europea. Mi interessa, tra i tantissimi commenti, citare due opposti, la prima pagina di Avvenire e la prima pagina del Manifesto. Su Avvenire, che apre su questa decisione, i sette giudici del crocifisso, sono sette i giudici che hanno deciso la Corte Europea dei diritti dell'uomo, c'è anche un italiano, il professor Zagrebelsky. La Corte ha deciso all'unanimità, dunque anche Zagrebelsky ha deciso diciamo con questa sentenza contro i crocifissi nelle scuole. Francesco D'Agostino in prima pagina: quello che non ci sorprende più purtroppo è l'accecamento ideologico che sorregge questa vicenda, la completa indifferenza per le regioni della storia, della cultura, l'illusoria pretesa che la mera presenza di un crocifisso possa fare violenza alla sensibilità degli scolari e giunga ad impedire ai genitori di esercitare nei loro confronti quella specifica missione educativa che è loro dovere e loro diritto. Non ci sorprende più purtroppo il fatto che i giudici della Corte Europea non percepiscano di agire con queste loro sentenze contro l'Europa, contro il suo spirito, contro le sue radici, rendendo così l'Europa stessa sempre meno amabile da parte di molti. Come dicevo, versione opposta al Manifesto, che mette in prima pagina un commento di Dario Fo. Questa sentenza scandalizza enormemente i cattolici apostolici romani, esplode l'ira del Vaticano, scrive Dario Fo, ma poi dice: in nome della croce, ricordiamolo, sono stati commessi allora anche grandi misfatti, le crociate, l'inquisizione, la rapina, i massacri del nuovo mondo, la benedizione degli imperi, degli uomini e della provvidenza. In nome di quel segno si sono commessi anche i crimini più efferati. E dunque è una decisione che divide, è il nostro sondaggio, ve lo ricordo, votate, ne parleremo poi alle 8.30, che ne pensate di questa decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha detto via i crocifissi dalle scuole italiane, accogliendo ovviamente una richiesta in tal senso da parte di una famiglia italiana. Trovate ancora molto sull'influenza A, anche con le polemiche come sul Riformista in prima pagina, il fallimento delle regioni, influenza e vaccino, caos organizzativo. Così è anche il Messaggero che punta molto su questo, un'intera pagina a dire vaccinazione a rischio flop, accuse tra Stato e regioni. È l'apertura del Messaggero, addirittura l'apertura di prima pagina, virus A, scandalo vaccini. Ma insomma, io più che tra le varie polemiche, tra la informazione o disinformazione, vi segnalerei il Sole 24 Ore che fa che cosa? Vaccino o no? Tutta una serie di esperti che rispondono a pagina 8 su questo allarme sanitario, come decidere se vaccinarsi, se non vaccinarsi, insomma tutte le categorie a rischio. Ecco, un vademecum magari per fare un po' di chiarezza, perché poi tra i vari commenti si rischia davvero di dire cose che non sono esatte. Passando rapidamente alla politica, ai temi politici che trovate, la politica è declinata molto sul tema della giustizia. Ci sono le anticipazioni che vengono centellinate come gocce di vino prezioso del libro di Bruno Vespa, che uscirà venerdì. Ogni giorno le redazioni sono inondate di anticipazioni. C'è anche una polemica su questo su Repubblica, che dice, ma insomma, prima si anticipava al massimo un capitolo 2, invece scrive oggi Sebastiano Messina sulla Repubblica il comunicato numero 27 di Vespa. Insomma, ogni giorno appunto ci sono anticipazioni delle interviste contenute in questo libro Donne di Cuori. L'ultima anticipazione è quella Berlusconi che dice sostanzialmente nessuno mi può ricattare, vale per oggi come per il passato, io non mi sono mai lasciato ricattare da nessuno, né mi sono comportato in modo per cui un simile evento si potesse verificare. Certo, il tema della giustizia è quello che campeggia sui giornali, giustizia nel senso dei processi che devono ripartire dopo la bocciatura del lodo Alfano nei confronti del Presidente del Consiglio. Riforma della giustizia che è in testa ai propositi di Silvio Berlusconi. Per il Corriere della Sera il titolo Berlusconi rinviare l'udienza sui diritti TV. C'è già un'udienza fissata il 16 novembre prossimo, ma Berlusconi ha fatto sapere che c'è un legittimo impedimento. Devo essere impegnato quel giorno sul vertice sulla sicurezza alimentare a Roma, alla FAO. E Luigi Ferrarella già profila un po' quello che saranno gli scenari dei prossimi processi. Appunto, il 16 novembre sarebbe dovuto riprendere il processo sui diritti TV Mediaset, ma appunto Berlusconi ha fatto sapere questo legittimo impedimento. Il 27 novembre anche deve riprendere il processo Mills, quello che peraltro probabilmente andrà in prescrizione, ma Berlusconi ha fatto pervenire, scrive Ferrarella, una comunicazione nella quale fa presente al tribunale che quel giorno ha un legittimo impedimento istituzionale come Presidente del Consiglio. Se in quell'udienza i giudici riterranno di limitarsi a spogliarsi del processo, in quanto per legge sono ormai incompatibili a giudicare il Premier dopo aver già condannato Mills, bene, altrimenti tengano conto dell'impedimento dell'imputato. E parallelamente, qui lo trovate sul Sole 24 Ore, ma sul Corriere, ma su Repubblica, addirittura l'apertura del Fatto, c'è quella che è la strategia che si profilerebbe per cercare di abbreviare i tempi della prescrizione, questo secondo le indiscrezioni dei giornali. Prescrizione breve, modello PD, questo è il titolo del Sole 24 Ore. Il Popolo della Libertà, con il suo esponente Ghedini, avvocato del Premier, sarebbe pronto a lanciare, ecco, l'iniziativa per cercare di abbreviare i tempi di prescrizione nelle aule parlamentari. Scrive Donatella Stasio sul Sole, sta per arrivare la prescrizione breve, disegnata da Ghedini e Longo, vale a dire i due avvocati del Premier, sul modello di una vecchia proposta del PD, voluta dall'ex senatore Calvi, che fa scattare che cosa? L'estinzione del procedimento se ciascuna fase, indagini, primo grado, appello, supera i 2 anni. Secondo Repubblica sarebbe già identificato anche l'uomo che al Senato porterà e firmerà questo emendamento, vale a dire Lucio Malan. Nessuno conosce nei dettagli questo provvedimento, sono in grande allarme secondo Repubblica i Finiani, la Lega. Il meccanismo appunto è quello, una prescrizione del processo che in futuro sarà scandito in 3 termini di fase, ciascuna di 2 anni. Se si superano questi 2 anni per ogni fase il processo viene prescritto, tanto che il Fatto Quotidiano titola amnistia di massa per salvare Berlusconi. La parola è prescrizione, la traduzione è per reati di qualsiasi tipo. Il meccanismo è quello, azzerare tutti i processi che durano più di 6 anni, appunto 2 anni per ogni fase. Visto il funzionamento della giustizia, secondo il Fatto, sarebbe una mega amnistia per tutta una serie di processi. In primo piano. La politica è declinata anche sulle i rapporti all'interno della maggioranza. L'ultima di Fini, Silvio come un monarca. Beh, indovinate dov'è? In un'anticipazione del libro di Bruno Vespa, ovviamente. È citata sul Giornale. Certo, riconosco la leadership di Berlusconi. Prima la carota, scrive il Giornale, poi il bastone. Ma talvolta accade che Berlusconi confonda la leadership con la monarchia assoluta. Così ha detto Fini. Tra l'altro il Giornale oggi sottolinea che i 3 leader, vale a dire Berlusconi, Fini e Bossi, si vedranno molto probabilmente a Montecitorio a cena, e non succedeva da 18 mesi. Secondo il Giornale, un articolo di Adalberto Signore, sarà anche un po' il Redderationem, con 4 nodi da sciogliere: la riforma della giustizia, le regionali, il ruolo del Parlamento, col presidente Fini che si è spesso lamentato, insomma, anche della, adesso non vorrei dire inutilità, ma insomma scarsa produttività del Parlamento, anche per le istituzioni italiane, per quello che è il modo di interpretare le istituzioni italiane, e poi il ruolo di Tremonti. Insomma, non è più politica, è diventato qualcosa d'altro, ma poteva mancare la consueta carrellata di articoli sull'inchiesta che ha coinvolto, ha travolto l'ex governatore del Lazio Marrazzo. Si parla molto dell'uso della droga, sul Giornale e su Libero si continua su questo tema. Controlli antidroga agli onorevoli, Giovanardi, da lunedì si comincia. Insomma, l'ennesimo si può dire politico pizzicato con problemi di droga, ed ecco che viene rilanciato questo tema. Davide Giacalone su Libero. Governare sotto stupefacenti, il peccato che paghiamo tutti. Ve lo voglio sottolineare, nel commento dice: il peggio è proprio realtà, c'era la droga e Marrazzo la usava. La vastissima spesa pubblica del Lazio è stata nelle mani di un utilizzatore di droga, di un drogato. E sapete qual è la cosa grave? Che non ci si rende conto di quanto sia grave, e non lo si capisce perché ormai si è assuefatti all'idea che con la droga si possa convivere. Non è solo un problema di costume, ma di legge. E per chi avesse la voglia di comprarsi Novella 2000, c'è tutta l'anticipazione sul Corriere della Sera, c'è l'intervista, chiaramente doveva diventare una star presto, a Natalie. Mai passata tutta una notte con Piero, al massimo sono rimasta 4 ore, era felice quando mi elessero Miss Transsex International. Parlava con me, diceva di essere un po' deluso per la sua vita sentimentale. Quando arrivavo mi offriva da bere un succo di frutta perché non bevo alcolici, poi andavamo a letto, parlavamo, ci facevamo le coccole. Insomma, potete immaginare il resto dell'intervista. Passiamo all'economia. Ripresa con rischio debito, come detto, è il titolo d'apertura del Sole 24 Ore, perché ci sono le previsioni dell'Unione Europea. È rivisto al rialzo il PIL italiano, meno 4,7% nel 2009, più 0,7% l'anno prossimo, in linea con l'Europa. La ripresa c'è, ma pesa il debito. Questo è il titolo a pagina 3 del Sole 24 Ore. C'è anche l'invito del presidente di Confindustria Marcegaglia. muoviamoci subito, i tempi non sono una variabile indipendente, rischiamo di avere le riforme pronte tra 5-6 anni e sono troppi perché perdiamo così in produttività rispetto ai paesi europei. E tra l'altro sul tema della ripresa vi voglio segnalare un'intervista che rimanendo sul tema ma saltando su Repubblica, Marco Marozzi ha fatto a Renzo Rosso. Chi è Renzo Rosso? Beh, forse lo conoscete, è un imprenditore globale, come si definisce lui, l'inventore del marchio Diesel, molto ancorato al Veneto, lui ci tiene a dirlo, ma chiaramente con un respiro internazionale. E beh, Rosso dice: la fine del tunnel è ancora lontana, la crisi deve ancora cominciare. Chi parla di ripresa dice boiate, boiate immense. Un sacco di aziende chiuderanno i battenti. Certo, ci vuole la sfera di cristallo, ma secondo me, dice Rosso, c'è un calo medio del 20-25%, un problema grossissimo di liquidità finanziaria. Chi salterà, chiede Marozzi, un 10-15% del mio settore, piccole imprese non strutturate senza mezzi, e poi la gente inventata, quella che è andata avanti copiando, con mille scappatoie, senza idee né solidità. In questo, dice Rosso, la crisi è anche un ripulisti, e finalmente. E poi insomma lui si definisce un imprenditore globale e se c'è un segreto dice questo: sono felice di essere nato, di vivere in Veneto, di avere avuto un'educazione semplice che ti insegna il valore della volontà, ma il futuro è nella capacità di essere globali e di mettere nei propri prodotti una cultura che ti differenzia. Per questo bisogna guardare molto ai giovani, ma dice Rosso no al posto fisso, alle aziende serve agilità, poi si tratta di trattare bene chi lavora per te e offrire ai giovani opportunità. Sono in velocissima chiusura, voglio ricordare solo, sempre sul Sole 24 Ore, che trovate tutte le in retroscena all'interno di Finanza e Mercati a pagina 45 del clamoroso colpo di scena, retromarcia si può dire, visto che parliamo di auto. Avete sentito anche in GR24, General Motors ha cambiato idea e si tiene Opel. Colpo di scena nella vicenda Opel, il consiglio di amministrazione della GM, riunito a Detroit, ha deciso di non vendere più la filiale europea, cancellando gli accordi preliminari per la cessione all'accordata russo-canadese Magna e Sberbank. Che succede ovviamente anche un duro colpo, secondo il Sole 24 Ore, per Angela Merkel, che aveva molto lavorato in tal senso. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, buongiorno. Carissimo, buongiorno. Oggi in gran forma. Con questa faccia dici di no, perché dici così? No. Ho dormito poco, vabbè, ma proprio ormai. Fermiamoci qua. Ormai praticamente la sera mi ridurrò a venire direttamente al lavoro, guarda. Non vogliamo sapere oltre. Va bene, non vogliamo sapere oltre. Parliamo di consumi degli italiani, che è meglio. Ed è sicuramente molto più interessante di quello che faccio io di la come sera. Di come si spende. Come spendono gli italiani? Allora, sempre questa crisi, a finire, cosa vuoi fare? Osserviamo un po' se questa crisi ha cambiato le abitudini di consumo delle famiglie e dei cittadini del nostro paese. Pare di sì, perché oggi è il buon senso a guidare gli acquisti, buon senso che non è solo esclusivamente dettato dalle esigenze economiche mutate, proprio consapevolezza diversa. Allora, stamattina a Roma viene presentata l'indagine annuale sui consumi degli italiani di Consumer Forum. Questa è l'associazione che riunisce le maggiori associazioni dei consumatori e le più grandi aziende italiane, un'associazione nata proprio per favorire il dialogo fra impresa e consumatori. Il presidente di Consumer Forum è Sergio Veroli. Presidente, buongiorno, intanto buon compleanno. Buongiorno, grazie. Buon compleanno, perché Consumer Forum compie 10 anni quest'anno, giusto? Sì, 10 anni. Presidente, cosa fa nel concreto questa associazione? Di che utilità pratica è per i consumatori? È un'associazione che consente un dialogo più stretto fra associazione dei consumatori e grandi imprese. Sono circa 10 imprese, 12 imprese importanti e le più grandi associazioni. Sviluppa un dialogo sui temi del consumerismo, e cioè su come funziona il mercato, sulla trasparenza, sulle scelte consapevoli dei consumatori, sulla sicurezza e sulla qualità, su tutta una serie di questioni importanti che consentono e dovrebbero consentire al cittadino di consumare meglio, con più sicurezza e più qualità. Peraltro, oltre a creare tavoli di concertazione, di ricerca, di formazione per la diffusione del consumerismo, siete stati molto impegnati nelle procedure di conciliazione delle controversie di consumo, e l'ultima grande battaglia è stata proprio quella relativa al tentativo di evitare che la cosiddetta conciliazione paritetica saltasse, almeno per come è concepita ora, quella diretta fra consumatore e azienda. In ogni caso, magari poi torneremo a parlarne, perché questa eventualità è stata scongiurata. Quali sono, Presidente, e quante sono state le più importanti battaglie che avete condotto negli ultimi anni? Il terreno della conflittualità più acceso qual è stato? A me viene per scontato, perché forse questo è il tema di cui mi occupo di più, quello bancario, ma è davvero così? Sì, i terreni sono soprattutto, hanno riguardato le aziende che sono state liberalizzate negli ultimi anni, e cioè le aziende di telecomunicazioni, le banche, le assicurazioni. Questi sono i terreni più importanti, e quindi in questi campi si è sviluppata questa forma diversa di risoluzione delle controversie, che è la conciliazione, che consente al cittadino in 2 mesi di risolvere un problema gratuitamente. Se avesse dovuto ricorrere alla giustizia, le cose sarebbero state molto più lunghe, sarebbero andate. Per questo ci siamo opposti a che la conciliazione fosse appannaggio esclusiva degli avvocati, che renderebbe costosa e inattuabile la conciliazione. Infatti, in ogni caso, come dicevamo, questa opzione allo studio del governo è stata scongiurata, speriamo che non sia solo una soluzione temporanea. Allora, andiamo all'indagine di oggi che presentate a Roma, appuntamento dalle 10 alle 13, sarà delle colonne. In sostanza la vostra mattinata si articolerà in 2 momenti: prima verrà presentata l'indagine ai consumi degli italiani a cura del professor Giampaolo Fabris, e poi l'indagine nuove sfide per la tutela dei consumatori. In questo caso sarà a presentarla il professor Marco Gambaro, docente di economia della comunicazione alla Statale di Milano. Un po' di dati: i cittadini italiani hanno imparato a comprare meno, a comprare meglio e a ottenere, se non sbaglio, Presidente, più soddisfazione dalla cosiddetta spesa competente. Sì, diciamo che la crisi, che è ancora una crisi drammatica e molto sentita dai cittadini, costringe un po' le persone a prendere coscienza, e quelli che prendono coscienza riescono a spendere meno e meglio, chiedono prodotti meno inquinanti, vogliono etichette sui prodotti chiare e trasparenti che indicano la tracciabilità del prodotto, e chiedono anche che i prodotti non inquinino, chiedono che la terra dove vengono coltivati i prodotti non sia depredata. Insomma, si sta sviluppando un aumento della consapevolezza e della qualità del cittadino, e questa è una cosa che ci fa molto piacere, perché di fatto il consumerismo, lo sviluppo del consumerismo è questo, è rendere il cittadino più consapevole, e quando il cittadino è più consapevole le aziende poi diventano anche loro più consapevoli, perché producono, distribuiscono e offrono servizi che debbono rispettare la volontà del cittadino. Presidente, le lancio questa provocazione: sempre nelle intenzioni siamo tutti molto virtuosi, ci comportiamo al meglio che possiamo, poi nelle attitudini pratiche in realtà non spesso, non sempre il nostro comportamento corrisponde alle intenzioni espresse, magari proprio in occasione di questi monitoraggi, di questi sondaggi, di queste indagini. Secondo lei, quanto, rispetto alle percentuali che avete raccolto, c'è corrispondenza fra intenzioni poi e atteggiamenti concreti nelle scelte di consumo? Ma il sondaggio è molto serio, perché lo elabora il professor Fabris su un'indagine che ha fatto il professor Pagnoncelli. Sono 1000 interviste, va bene? 1000 interviste molto approfondite, con 10 domande, con molte risposte, quindi credo che sia sufficientemente attendibile e importante. È il secondo che facciamo, lo rifaremo quest'altro anno, e le risposte sono coerenti, qualche cosa cambia. Per esempio, c'è un po' più di fiducia rispetto al passato, rispetto alle prospettive di questa crisi. C'è un'attenzione maggiore però a come si spende, questa è aumentata, ed è aumentata anche l'esigenza per i cittadini che le associazioni dei consumatori siano sempre più presenti. Infatti la cosa interessante è anche magari spiegare, questa purtroppo è l'ultima domanda che le posso concedere, a cosa servono mediamente questi monitoraggi, queste indagini, perché come lei sa, Presidente, ne leggiamo ogni giorno di ogni tipo su tutti i giornali. Mi chiedo se la vostra iniziativa sia volta proprio a continuare a migliorare il dialogo con le imprese, affinché poi la politica delle intenzioni individuale diventi proprio orientamento concreto anche nei comportamenti. Sì, a noi questi sondaggi e queste ricerche servono a capire quali sono i punti per sviluppare e migliorare il rapporto fra il consumatore, il cittadino e le imprese, quali sono i punti deboli e quali sono i punti di forza. In base a questi si può sviluppare un dialogo fra cittadini e imprese. Presidente, la ringrazio, ci risentiamo magari nei prossimi giorni, ci racconterà sicuramente com'è andata questa mattina e magari torneremo a spiegare un po' meglio un po' l'attività di Consumer Forum ai nostri ascoltatori. Buona giornata e buon grazie lavoro. Grazie mille, arrivederci. Arrivederci. Alessandro. Eccoci qua, Debora. Oggi mi devi ascoltare a Salvadanaio. Ma io lo faccio tutti i giorni. Sì, vabbè, guarda che naso già che è arrivato. Ieri Pinocchio pare che abbia avuto grande successo. Parlo di prodotti di risparmio per i bambini. Ah, allora ti ascolto sicuramente. Benissimo. Ti ascolto sicuramente con molta attenzione. Ma guarda che ti ascolto spesso adesso. Non, sì, non fare mi ascolti quella... solamente per venirmi a chiedere se andiamo a pranzo dopo. Guarda, questo è il massimo ascolto di Salvadanaio. Ormai abbiamo svelato quasi tutto. E allora, noi parliamo del crocifisso nelle scuole. Il crocifisso nelle scuole, c'è questa sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che ha detto il crocifisso nelle scuole viola la libertà degli alunni, la libertà dei genitori a educare anche chi non crede, insomma. Che ne pensate? Reazioni incredibili. È il nostro sondaggio, non dovete mandarci messaggi, dovete votare su radio24.it o il sole24ore.com. Se invece volete telefonare per intervenire, 800 24 0024. Le notizie in primo piano: il crocifisso appeso nelle aule scolastiche è una violazione della libertà dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni e una violazione della libertà di religione degli alunni. Lo sostiene in una sentenza la Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo. Ne parleremo tra pochissimo. La riforma della giustizia è sempre in primo piano nell'agenda di governo. Intanto gli avvocati del premier Berlusconi hanno inviato una richiesta di legittimo impedimento per la seduta del 16 novembre fissata per riprendere il processo sulla compravendita dei diritti TV. Devo presenziare al vertice FAO, ha fatto sapere Berlusconi. Un anno dopo l'elezione, il presidente degli Stati Uniti Obama affronta il primo mini test elettorale ed è una sconfitta perché alle elezioni per i governatori di Virginia e New Jersey hanno vinto i due candidati del partito rivale, i repubblicani. A New York invece riconfermato sindaco l'indipendente Michael Bloomberg. Infine per il calcio, in Champions League finisce 1-1 la sfida a San Siro tra Milan e Real Madrid, mentre la Juventus vince 1-0 in Israele col Maccabi Haifa e a un passo dalla qualificazione. Stasera in campo Dinamo Kiev, Inter e Fiorentina Debrecen. E allora, proprio dei crocifissi di questa controversa, di questa dibattuta sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, parliamo nel nostro sondaggio di oggi. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Beh, la domanda che facciamo è molto semplice: che ne pensate di questa sentenza che ha accolto il ricorso di una coppia di coniugi italiani che oggi tra l'altro sul Corriere della Sera dicono per favore non fotografateci, adesso temiamo i talebani del cattolicesimo. Voglio salutare Rocco Buttiglione, buongiorno. Onorevole Presidente dell'UDC, così come voglio salutare Riccardo Nencini, che è segretario del Partito Socialista Italiano, buongiorno. Buona giornata. Due esponenti politici, ma anche due pensatori, insomma, due persone che studiano la storia, studiano la filosofia e che hanno posizioni contrapposte. Rocco Buttiglione, le chiedo che ne pensa di questa sentenza, una sentenza come la definisce, in un aggettivo come la definirebbe? Stupida. E voglio rassicurare prima di tutto I proponenti: il massimo che possono fare i talebani cattolici è pregare per la loro conversione, anche loro cerchino di non eccedere i limiti del ridicolo. La riflessione è stupida, il motivo è semplice: qual è ciò che sta dietro, il pensiero che sta dietro la sentenza? Che arriva in Italia un islamico, tutti i simboli della religione cattolica devono essere tolti, perché lo spazio sociale deve rimanere vuoto di qualunque simbologia religiosa. Non è così. Chi viene in Italia, chi viene in un paese che ha quella storia, quella cultura, quella tradizione, fortemente sentita anche da tanti che non vanno in chiesa, perché il crocifisso è comunque un simbolo che appartiene alla nostra cultura. Alcuni pensano che l'uomo appeso sul crocifisso sia il figlio di Dio, altri pensano che sia semplicemente un uomo buono che ha dato la vita per i suoi amici, ma comunque è un simbolo che fa parte della nostra cultura. Chi non condivide questo simbolo ha perlomeno il dovere di rispettarlo. Non è imposto a nessuno, fa parte del nostro paesaggio. Cosa faremo? Cancelleremo le chiese? Oppure diremo che non si deve più insegnare la storia dell'impero romano, ma invece è quella dell'impero del Benin? O che bisogna dare altrettanto spazio alla storia dell'impero romano e alla storia dell'impero del Benin, per chi non lo conoscesse, un grande impero che c'è stato in Africa, perché altrimenti chi arriva dall'Africa si sente discriminato dal fatto che noi studiamo la storia dell'impero romano perché siamo italiani e fa parte della nostra storia. Però le chiedo, onorevole Buttiglione, facendo mia quella che in realtà è l'opposizione, che per farle la domanda, insomma, un giurista come Stefano Rodotà oggi scrive su Repubblica, un grande teorico del diritto, proprio contrastando questa idea maggioritaria, l'argomento maggioritario, cioè siamo in grande maggioranza cattolici, un grande teorico del diritto, Ronald Dworkin, disse: l'istituzione dei diritti è cruciale perché rappresenta la promessa della maggioranza alla minoranza che la sua dignità e uguaglianza saranno rispettate. Per questo, dice Rodotà, non si può dire siamo in grande maggioranza cattolici e dunque chi viene qui deve adeguarsi a questo simbolo. Questo sarebbe giusto, come spiegai io a Dworkin a Vienna tanti anni fa, sarebbe giusto se noi pretendessimo che chi arriva diventasse cattolico. No, noi chiediamo la libertà di esporre nello spazio pubblico i nostri simboli. Siamo pronti a dargli la libertà di esporre nello spazio pubblico anche i suoi, ovviamente in maniera proporzionale alla diffusione e presenza. Sarebbe assurdo mettere un simbolo islamico in una scuola dove non c'è neanche un islamico, e questo mi sembra un'affermazione di libertà. Qui c'è la volontà di impedire alla maggioranza di poter usare lo spazio pubblico secondo i propri valori, e questo, portato fino in fondo, significa che dobbiamo rivedere i programmi scolastici per parlare, perché mai parliamo tanto dell'Europa nei programmi scolastici? Dobbiamo parlare anche degli altri continenti, e invece no, noi siamo europei. Perché parliamo tanto dell'impero romano e non dell'impero cinese? È perché siamo europei, è la nostra storia, e abbiamo il diritto di vivere la nostra storia. Quando in Italia saranno in maggioranza i cinesi, studieremo la storia dell'impero cinese. Fino ad allora sarà giusto che nei programmi si studi la scuola dell'impero romano, per amor di Dio, anche dell'impero cinese, ma con una proporzione che tiene conto dell'impatto che sulla storia italiana ha avuto l'impero romano, che è molto più grande dell'impatto che ha avuto l'impero cinese. Come l'impatto che ha avuto il cristianesimo nella storia italiana è molto più grande dell'impatto che ha avuto l'Islam. Si distrugge tutto in nome della laicità, questo è il titolo dell'intervista che il ministro Stella Gelmini ha rilasciato alla stampa. Vorrei, Riccardo Nencini, come ha detto lei ha una posizione diversa, politica, ma anche, se posso dire, anche storica, culturale, anche lei è uno studioso di storia, che ne pensa anche lei? Chiedo anche lei un aggettivo su questa sentenza. Buttiglione ha detto stupida. Buongiorno senatore Buttiglione, intanto come stai? Tantissimi auguri. Grazie. Ma due questioni prima. Affronterei il tema con una grandissima cautela, mentre invece ho visto che la piega presa è quella molto tradizionale in Italia, dei guelfi che si oppongono ai ghibellini, ed è un errore drammatico e terribile per la delicatezza della questione e soprattutto perché la Corte europea non l'ha affrontata in questi termini. Io invito a leggere la sentenza prima di esprimersi. La sentenza dice due cose essenzialmente. La prima è che non si possono esporre simboli religiosi per non contravvenire alla sensibilità di chi ha una religione diversa. Però la Corte dice anche, uno, che vanno apprezzati coloro, famiglie, genitori, figli, eccetera, che sono ispirati, che si ispirano a valori, a principi che nascono in qualsiasi religione. Quindi non c'è il terreno, non viene fecondato il terreno per uno scontro religioso, ma al contrario. Secondo, lei ora citava uno scritto di una citazione di Rodotà, di un grande giurista contemporaneo. Sì. È esattamente la stessa cosa che viene scritta nel primo dizionario della lingua. È un dizionario che venne scritto dagli accademici della Crusca di Firenze nel 1612. La parola diritto si scrive, è diritto ciò che non è un torto, e si aggiunge la maggioranza ha il dovere di tutelare i diritti altrui. Di tutelare, sì, perché è andato via un attimo, la comunicazione con il cellulare. La maggioranza ha il diritto di tutelare i diritti altrui. Nell'altrui, ovviamente, se si parla di maggioranza, si parla l'altrui, sono la minoranza. Quindi è cosa che era già infissa negli ordinamenti, nel pensiero di una parte della civiltà, di una parte della civiltà occidentale. Né questa ispirazione, e qui mi spiace contraddire l'amico Buttiglione, non è paragonabile la presenza della cattedrale, della chiesa gotica o romana o barocca nel paesaggio italiano o spagnolo o francese. Qui stiamo parlando di simboli religiosi in un luogo pubblico. Sì. Quindi secondo lei la laicità dello Stato è, diciamo, è messa in dubbio con la presenza di un simbolo religioso in un luogo pubblico? Guardi, io mi sono trovato di fronte allo stesso tema con una mozione presentata da alcuni consiglieri regionali in Toscana che chiedevano di esporre il crocifisso nell'aula del Parlamento regionale. E io ho risposto che non è possibile, già abbiamo i simboli che contraddistinguono la Repubblica italiana. E sono la bandiera, il tricolore e la foto e il ritratto del Presidente della Repubblica. Vediamo su questo, onorevole Buttiglione, è una posizione laicista o laica quella di Nencini che dice nel sede del Consiglio regionale non mettiamo il crocifisso, già i simboli ci sono, la bandiera è... È una posizione perfettamente legittima, perché quello che noi sosteniamo non è l'obbligatorietà di mettere i crocifissi. Chi li vuol mettere li mette, chi non li vuol mettere non li mette. Se in quella istituzione lì non lo vogliono mettere, non lo metteranno. Ci sarà magari uno scontro interno, perché chi lo vuole mettere dirà chi lo vuole mettere, magari si arriverà al voto. Però chi mi scusi, questo lo mette, chi non lo vuole mettere questo, non lo mette. Questo deve valere per il crocifisso? Questo deve valere per il crocifisso? Coercizione contro i diritti. No, ma le chiedo, non diciamo che non hanno il diritto di mettere i simboli religiosi. Vogliamo averlo anche noi questo diritto, tutto qui. Però le chiedo, questo diritto allora deve valere anche per una minoranza ebraica che vuole esporre la menorah? E che facciamo? Mettiamo i simboli di tutti? Ma certo, ovviamente con buon senso i simboli verranno esposti dove opportuno, e tenendo conto che esporre il simbolo della religione ebraica in una scuola nella quale c'è una forte minoranza ebrea o addirittura una maggioranza ebrea, è ovvio che deve essere fatto. Se non c'è nessun ebreo, forse non è così. Certo, è un simbolo della religione. Allora, Buttiglione, le voglio forse rovinare la giornata. Dario Fo, oggi, in prima pagina del Manifesto, dal titolo Crocevia, questo è il titolo, l'editoriale sul Manifesto, ha detto: ricordiamoci anche allora, se vogliamo dirla tutta, che in nome della croce sono state commesse lì i grandi misfatti, le crociate, l'inquisizione, la rapina e i massacri del nuovo mondo, la benedizione degli imperi e degli uomini della provvidenza, i crimini più efferati, in nome di quel segno tra virgolette. Le ho rovinato la mattinata. Mi ha fatto divertire, perché veda, questo è l'espressione di una mentalità totalmente faziosa e totalmente astorica. Io come cristiano condanno le crociate e dico che non ci siamo comportati come cristiani e siamo colpevoli davanti a Dio. Quello del Manifesto non ha il diritto di condannare le crociate, perché i crociati non erano certamente peggio dei musulmani del loro tempo. Se qualcuno è andato a riconquistare la Spagna è perché qualcuno prima l'aveva conquistata. L'Islam si è diffuso col ferro e col fuoco, è stato ricacciato indietro. Bisognava ricacciarlo indietro in un altro modo, con la testimonianza e la predicazione. Certo, qualcuno ci ha provato, qualche volta è anche riuscito. Pensate a Solidarnosc in Polonia, il più grande impero del mondo, il più potente militarmente, ricacciato indietro con una pura testimonianza. Tuttavia il Manifesto non ha il diritto di condannare i cristiani, perché in tempi di ferro i cristiani sono stati talvolta uomini di ferro come gli altri. Non era bello per gli uni, non era bello per gli altri, ma certamente non può essere usato contro la religione cristiana. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, se sono rapidi, come sempre, come devono promettere di essere, ma efficaci, gli ascoltatori, in 10 secondi si può dire tutto. 15. Lisa dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. A favore o contro? Assolutamente a favore di questa sentenza, anzi dico finalmente è arrivata una sentenza di questo genere. Io ho 40 anni, ho fatto una battaglia di questo genere a 16 anni, ero in un liceo scientifico in provincia di Milano, stiamo parlando di una realtà culturale molto aperta, sì. E assolutamente battaglia fatta insieme ai miei compagni di scuola, in 28 eravamo in classe, in terza liceo e l'abbiamo purtroppo persa. Cioè, che battaglia avete fatto? Volevate togliere il crocifisso? Volevamo togliere il crocifisso, pure. Cosa vi disturbava del crocifisso? Il fatto L'idea che in un'istituzione culturale, dove quindi il problema è culturale e intellettuale, ci fosse un simbolo religioso che niente ha a che fare con l'intelletto e con la cultura, cioè inteso ovviamente nella religione. Che però non è solo un simbolo religioso, per molti non è solo un simbolo religioso, è anche un simbolo che rappresenta la nostra storia, la nostra cultura. È proprio questo il punto, perché in realtà è un simbolo religioso, punto e basta. Va che bene. Poi dietro quel simbolo religioso ci sia una cultura, va bene, ma allora c'è anche dietro la stella di Davide, c'è anche dietro... Grazie Lisa, no, ma è stata chiarissima, gli ho dati anche 40 secondi. Enzo da Agrigento, buongiorno, che è a favore o contro? Buongiorno a voi, io sono contro questa sentenza, per un semplice motivo, sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto il Presidente Buttiglione. Sì. Praticamente i diritti di chi non vuole il crocifisso, che è un simbolo sicuramente religioso, che tramanda una cultura, ma i diritti di chi vuole invece il crocifisso, io non sono contro quelli che vogliono mettere altri simboli, cioè se c'è in una classe o in un luogo pubblico, però cosa facciamo? Mettiamo tutti i simboli, ognuno... Se c'è anche una minoranza che vuole esporre il suo simbolo, per cui lo esponga, come simbolo religioso lo esponga, non mi dà assolutamente problemi. Va bene. Può essere spunto per approfondire quella cultura. Grazie Enzo. Voglio salutare Luigi Tosti, buongiorno. Buongiorno Tosti, l'abbiamo fatta ascoltare, lei tra l'altro, spero la comunicazione sia buona perché l'abbiamo trovata all'estero. Lei giudice a Camerino, è il giudice diventato celebre per una battaglia che ha portato avanti in vari gradi di giudizio, è stato credo assolto a livello penale, ma c'è un procedimento disciplinare perché lei non voleva nell'aula del tribunale il crocifisso. Sostanzialmente sì, per onestà di informazione bisogna dire che io ho manifestato la piena disponibilità a tenere le udienze in presenza del crocifisso purché venisse autorizzato a esporre il simbolo della menorah ebraica, perché imporre un simbolo religioso e vietare l'esposizione di altri simboli religiosi è un atto di razzismo, di discriminazione religiosa. Che ne pensa di questa sentenza? Quindi, la sentenza direi risponde elementare, risponde a principi di diritto elementari, e direi che proprio il principio fondamentale è quello del rispetto del diritto all'eguaglianza di qualsiasi individuo, sto parlando di individuo, è un diritto individuale, inviolabile, garantito sia dalla Costituzione italiana che dalla Carta, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, è quello dell'eguaglianza, senza distinzione non solo di razza, ma anche di cultura, di religione, eccetera. Per cui il dato numerico, a differenza di quanto sostiene l'onorevole Buttiglione, in materia di diritti individuali non ha alcun rilievo. E questo non l'ha stabilito, diciamo, soltanto la Corte europea, ma l'ha stabilito la Corte Costituzionale italiana. Quindi quello che mi meraviglia è che vi siano oggi dei politici che perseverano nel criticare queste sentenze, che tra l'altro non fanno, torno a ripetere, che affermare dei principi elementari. Ci sono state sentenze in Italia contrarie, per esempio, perché questa coppia italo-finlandese da anni porta avanti questa battaglia, a volte gli è andato torto, a volte questa volta ha ragione. Due sentenze del TAR del Veneto e del Consiglio di Stato. Sì. C'è da dire però che la Corte di Cassazione nel 2000, Cassazione Penale, ha affermato gli stessi principi attualmente affermati dalla Corte Europea. Non solo, ma la Corte di Cassazione che mi ha assolto ha affermato questi principi e lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, che mi ha sospeso dalle funzioni del stipendio da ben 4 anni, ha affermato gli stessi principi che oggi vengono affermati dalla Corte europea. Attivissimo il CSM con lei, Sì, attivissimo. Sono 4 anni, io sono ancora sospeso. No, allora, si dice che il CSM non punisce nessuno, il CSM si dice così, insomma. Sì. Invece da 4 anni. All'onorevole Buttiglione farei questa domanda. E la faccio qua? Sì, sì, beh, la faccio a lui e la faccio anche al pontefice. Visto che io ho chiesto di esporre la menorah ebraica e mi è stato negato questo diritto, quindi mi hanno costretto a poi reagire in quel modo, poi subendo tutti questi... questa non è una forma di discriminazione religiosa? Onorevole Buttiglione, risponda, non credo a nome del pontefice, insomma. Per lei può rispondere, Buttiglione. Mi pare che sia il giudice... sia la prima signora di Milano che ha parlato non abbia capito esattamente la mia posizione, mi sono spiegato male, torno a spiegarmi. Quello che è orribile nella sentenza di Strasburgo è che non si tratta di un diritto di libertà, si tratta di un diritto di oppressione, di una minoranza verso una maggioranza. Sarebbe altrettanto orribile se fosse di una maggioranza, anzi più orribile forse ancora se fosse di una maggioranza verso una minoranza, ma è il diritto di proibirmi di fare una cosa che io voglio fare, appendere sul muro un crocifisso. Se nella scuola della signora milanese non lo volevano appendere, che non lo appendessero. Non voglio imporre di metterlo. Ma lei ha detto ha provato a farlo togliere. Se vuole mettere, lo possa mettere. Ma il giudice Tosti può mettere la menorah, secondo lei, o è una discriminazione? Secondo me sì. L'ho detto. Se ci il caso sono, di ovviamente non arbitrariamente, se non c'è nessun ebreo è inutile mettere la menorah, ma se c'è una minoranza significativa la quale vuole esporre un simbolo della sua religione, bisogna metterlo. Dove lo si mette, si vede che il simbolo si mette, e questo abitua la gente a pensare che dentro lo stesso spazio possono convivere simboli diversi. Quello che a me fa orrore è l'idea che uno possa avere schifo davanti al crocifisso, possa sentire la presenza del crocifisso come una violazione della sua dignità umana. Cosa io non sento la presenza della mezzaluna come una violazione della mia dignità umana, non sento la presenza della menorah come una cosa che mi fa schifo, tutt'altro, ho la massima venerazione culturale e anche religiosa, perché poi è un simbolo che ebraismo e cristianesimo si sovrappongono, non solo in parte almeno, non solo culturalmente ma anche religiosamente. Ma no, ma certo. Devono sentire orrore del crocifisso. Allora mi devo fermare qui, ringraziando l'onorevole Rocco Buttiglione, Riccardo Nencini, segretario del Partito Socialista Italiano, e Luigi Tosti, giudice nonché sospeso nelle cariche, nelle funzioni e nello stipendio a Camerino. Ci fermiamo, il sondaggio è lì, votate. Per ora il 58% sempre dice di no, questa sentenza è sbagliata, contro questa sentenza. Radio24.it o il sole24ore.com per votare. Non mi resta che dire grazie a Laura Marchesi in redazione, Carmelo Lauricella in regia, e noi domani 7:30.